E ci siamo, Ristoradio Convento in compagnia delle nostre tre fedelissime del venerdì sera, vero ragazze? Vero. Vai coi nomi? Chiara, Elena, Tecla. Chiara, Elena e Tecla, ormai tre nomi che hanno lasciato il segno nelle nostre serate, sempre presenti, vero? Sempre presenti, sempre qua. Allora, per il pubblico che ci ascolta da casa, ovviamente vogliono sapere un attimino come siete, perché la descrizione è fondamentale, a radio non vi possono, anzi, se vi vogliono venire devono venire qua, giusto? Esatto. Risto, perché tutti i venerdì siete presenti. Sempre perennemente sempre qua. Ecco, la domanda che si fanno, siete single, fidanzate? Single. Single. Fidanzata. Colpo di scena, 2 su 3. Single. Chi sarà la fidanzata? Vediamo se da caso riescono a capirlo. Allora, vediamo. La single 1, la Chiara. Descriviti velocemente. Simpatica. Impulsiva. Non gli interessa niente di questa bella. Cosa. Bella. Ok, ecco. La terza. Alla terza hai alzato l'audience. Poi abbiamo Tecla, l'altra single. Io sono bassa. Come tozza? No, sono tozza, sono bella anch'io. Bellissima. Bellissima anche lei. Magretta. Cos'è che c'hai, carrozzata? Abbronzata. Ah, ho capito carrozzata. Ho capito male? Sì, hai capito malissimo. Ho capito. Ecco. Abbronzantissima. Abbronzatissima. E poi abbiamo quella carrozzata? Quella carrozzata. Ce l'abbiamo carrozzata, ecco. Esatto. Però signori e signori, purtroppo è l'unica fidanzata, giusto? Esatto. La super carrozzata è pure fidanzata. Come ti chiami? Elena. Descriviti dai un attimo. Abbronzata. Come abbronzata? Non è vero. Non è vero. Ha copiato Tecla clamorosamente. Esatto, ma una puttanata. Ecco, tra l'altro così una cosa così. È andato sul giro, Tecla. Ma sì. Tanto Tecla, per chi non la conosce, è tutta carina, magretta, fine, col vestitino e poi e poi tira giù di qui. È un po' è vero. Ah sì, così proprio tira giù. La carrozzata, vieni qua e descriviti. Simpatica. Simpatica, non ne frega niente a nessuno ancora, ricordiamolo. Bella. Simpatica. Sono fidanzata, non posso essere bella. Attenzione, colpo di scena, che brava. Sono fedele. È fedele anche nella descrizione. Cioè, si sa mai che dai, qualcuno. Bella anche. Qual è il tuo punto di forza? Il capello ricci. Il capello riccio? No. Il capello riccio? No. Attenzione. La prenza tutta. Come la prenza? Tecla, dillo te in maniera semplice. Allora, punto di forza. Ecco, perfetto. Mi piace anche Chiara che interviene. Anche Chiara con queste finezze. Ecco, ecco. Tecla è la voce della verità. Tecla, punto di forza della nostra Elena. Il riccio. Il riccio, il sorriso. Pensavamo qualcos'altro. Ma puntavo su Tecla. Cos'è che è? Non voglio essere volgare. Ah, brava, tra l'altro non vuole essere volgare lei, che prima. Ecco, che non vuole mai essere volgare. No? Giustamente, si è capito fin da subito dal suo primo intervento che non voleva essere volgare, Tecla. Brava. Da dove venite, si può dire? Calcinato Montichiari. Calcinato Montichiari. Ok, quindi siete abbastanza vicine. Sì, siamo qua in giro. E allora, gli amici che magari vi stanno ascoltando in questo momento e sono in macchina, stanno guidando, vi rendete conto che le vostre voci stanno entrando in tutte le case, le macchine e delle persone che sono in giro? Vi sembra? È bello, no? Cioè, gli state facendo compagnia. Esatto. E tra l'altro fantasticare un po', diranno, ma chissà com'è fatta questa Tecla. Ecco, vorrei bere una birra con Tecla e fare 2 o 3 rutti con lei. Ecco. Allora, rutti con Chiara. Chiara l'ha detta a rutto? Bestemmia. Ah, pure no, bestemmia. No, il rutto. Il rutto ci sta, cioè nel senso. Allora, un ragazzo che vuole bere una birra e birra con rutto. Deve rigorosamente, cioè. Con Chiara. Prima e dopo. Allora tu, Chiara, la prima uscita con un ragazzo, se non rutti non vale, giusto? Esatto. Ah, quindi, ok. Chiara domani al lago farà una serie. Domani cos'è che fa? Al lago rutta? C'è un evento? Ah, perché lei lo programma per il fine settimana, Ruto? Cioè, lei beve tutte le cose gasate durante la settimana, trattiene tutto per arrivare al lago e fare l'effetto tsunami e creare un... E rimorchiare. Pure. Ah, perché tu rimorchi... No, veramente. Chiara è una bomba, Chiara... Cioè, questa è una tecnica... Chiara. Di rutti? Anche. Cioè, quindi la tecnica di Chiara è ruttare ai ragazzi che passano. Non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. E invece va così. Cioè, ma comunque funziona Tecla? Chiara Cucca un sacco ecco. No beh no, aspetta, ha detto che Cucchi no, Chiara singola vita però con delle, un sacco di parentesi mi sembra. Sì. Quindi, Elena Cucca Cucca Tecla con i porconi immagino. No. Tecla, qual è la tua tecnica per cuccare? No, in realtà non ho tecnica. Cos'è? Ah, la tecnica, cioè cosa fa? Cioè, quando fa il topless? Esce. Ah, tipo quando cantano esci, esci. Lei è la prima. Pronti? Pronti? Eccomi qua. Cioè, quindi basta chiamare, fare la sigla. Esci, le. Non è uscita. Tra l'altro anche il radio lo sta facendo, amici ascoltatori, a casa. Dovreste immaginarla. Adesso sbandano tutti. Quindi, allora, abbiamo Chiara con la tecnica Rutto, Tecla con la tecnica ad escile. Escile, ecco. Elena è fidanzata. Quindi, se no potrebbe venire bene anche la... Alla Elena potrebbe venire un cocktail unico tra un Rutto ed escile. Potrebbe fare un mix, eh? Ci sta il mix, eh? Il mix per la Elena. Che porco. Ma? No, un mix così, cioè... No, io non rutto. Non rutti? Non esce neanche. Niente. No, dai, Orco. Tra l'altro una rivelazione che alcuni maschi non sanno, cioè non si sarebbe mai immaginato, anche le ragazze ruttano. Sì. Questa è sempre tabù. Questa è radio rivelazione, cioè... Pensa che ci sono ancora ragazzi che pensano no, che pensano che le ragazze non facciano queste cose. Male solo perché non hanno ancora conosciuto Chiara, appunto. Conoscetemi. Allora, numero di telefono, tac. Aspetta che sennò arrivano mille chiamate. No, non è caso. Ecco. No, più che altro potremmo fare un documentario su Chiara e facciamo una puntata di Convento Quark dove esamineremo l'esemplare Chiara in movimento all'interno del locale. Ci può stare? Ci state? Tra un rutto e l'altro. Tra un rutto e l'altro. Vabbè, chiaramente al convento, giustamente. Ecco. L'unica. Sì, ci sta, no? No. Quindi balla ruttando, Chiara. È per quello che quando io la vedo ballare ogni tanto fa delle mosse movimento strane con la bocca. Sì, esatto. Tra l'altro arriva sempre con la pancia un po' gonfia, poi alla fine serata è in super forma smagliante. Tra l'altro stasera è una magliettina corta che evidenzia un per po' il pancino. Far vedere che hai già la bronzatura, no, che hai già ruttato, no? Esatto, quindi è a posto per stasera. Esatto, quindi per stasera hai già cuccato. Tempo di andare un anno. Ah, ok, perfetto. Domani. Ci penserei domani a fare colazione con la birra, perché puoi partire già la mattina con un po' di gas. Birra e crauti. Una cosa leggera, ecco. Che stimola anche poi il fatto di poter limonare con un ragazzo, perché quel sapore di crauto che non deve mancare mai in ogni bacio, giusto? Esatto. Un bacio al crauto. Esatto, in ogni limone. Ecco, ci sta un crauto. Mi piace questa. Per me eravamo partiti bene col fatto che era simpatica, carina. Che fai? Siamo arrivati, forse. No, cos'è? No, la ragazza mi fa dei gesti strani, capite? Questo è un pesciolino. Ecco, perché guardate, si attacca al vetro tra poco, eh. A causa degli errori. Ecco. Oddio. Questo è un cliente. Teclone, escile. È un cliente teclone. Ma faccio chiaro. Che tra l'altro è tutta mingherlina, cioè. E invece c'ha, lascia delle sorprese. Ma che faccio, ascolti ancora loro? Non lo so, io non so che ascoltare. No, tra l'altro anche il ragazzo fuori mi sembra che abbia notato qualcosa in voi, perché. Sì, ma che stai fuori. È salito. Sì, qua siamo protetti. Veniamo protetti, chi si incappia qua. È salito l'entusiasmo in questo ragazzo. Ma veramente ci sono persone che ci ascoltano? Purtroppo sì. Forse ne avevamo prima, adesso non so più cosa può succedere dopo questo incontro conoscenza tra. Come abbassare gli ascolti. Come abbassare. No, o magari anche alzare, dipende da cui. Che fai, Elena? Sei disperata? Sono tue amiche, te le sei portate a te? Lo sai, vero? Lo sai, vero, che sono tue amiche? Sì, lo so, ma mi va benissimo così. La conosci da tanto? Lei da 6 anni. Lei chi è? Chiara, giustamente. Chiara, giustamente. Chiara, e Tecla invece da 2 anni. 6 e 2. Okay. Perché Chiara faceva il liceo con me e Tecla l'ho conosciuta all'università. Ah, quindi voi avete fatto le superiori assieme? Ma anche l'università. Tutto assieme con esatto, Chiara. Esatto, sì. Immagino le superiori quante ne avete combinate. Ma... C'è un aneddoto strano da raccontare, si può dire? Dai. Elena, me lo racconti? No, non c'è niente da raccontare, no, delle superiori. Niente, dell'università allora. C'è un aneddoto che. Che non mette nei casini nessuno, non imbarazza nessuno. Qualcosa di consentito? Ah, io non ho niente. neanch'io. Allora, niente di speciale. Non è successo mai niente. Siamo brave, tranquille. Non lo so, Chiara ha fatto un rutto, nessuno, non so, pensava che non ci fosse qualcuno, poi l'hanno sentita in classe, davanti al professore. Non sarebbe un aneddoto perché sarebbe quotidianità, nel senso, non sarebbe rilevante. Proprio... Normalità. Normalità. Nella normalità tu entri tipo bruttando, ecco. Perfetto. E chi non lo fa? No, e chi non lo fa? Tra l'altro? Elena. Elena, ricordiamo che Elena è la parte onestà, è la parte sana, è la parte sana, santa e casta del gruppo, casta. Proprio. Casta. Questo rafforzativo Tecla, cioè, serviva, secondo me serviva il rafforzativo. Più casta di noi. Eh sì, no, è una Elena è una brava ragazza, Tecla anche, e anche Chiara. Esatto. Avete solo quella passione del ruto che vi unisce. Ecco. Fantastico. Domani si può dire dove andate domani? Non si può dire? No. Domani niente. Non c'è un'anteprima? No, al lago. Al lago, sarete al lago? Quindi... Esatto, al lago. No, era per gli amici. Non si può dire neanche la zona? A Manerba. A Manerba, ok. Allora, signore e signori, se domani sarete al lago in zona Manerba e sentirete delle scosse telluriche, ecco. Ecco, non vi preoccupate, c'è solo la presenza di Chiara, Tecla e Elena in zona, ecco. Esatto. Ecco, va bene, io finirei qua perché il tempo a nostra disposizione, certo, è passato da un po', stiamo parlando quasi da 12 minuti, vi siete accorte? Ci avete mai pensato di poter dire così tante vaccate? Andate cagate in radio. Ecco, no? Ecco, perfetto, va bene, sarà quando vi riascoltate. Che... va bene, salutiamo, vai Chiara, saluta. Ciao, ci vediamo domani. Oh. Un bacio. Ciao. Un bacio da? Tecla. Carino. E? Vabbè, anche da me, dai Elena. E da Elena, ok, brava, ciao.